Europa 24. Da questa mattina le bandiere delle istituzioni europee sono a mezz'asta in segno di lutto per i migranti morti nel Mediterraneo e ora anche per le vittime del terremoto in Nepal. A Kiev intanto è in corso un incontro a porte chiuse fra il presidente ucraino Petro Poroshenko, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Lo riferisce la presidenza ucraina precisando che si tratta del primo vertice Ucraina-UE dopo la rivolta di Maidan del 2013-2014. Il Comitato Fitosanitario Permanente dell'Unione Europea dovrà approvare fra oggi e domani a Bruxelles una proposta di decisione esecutiva della Commissione Europea che potrebbe imporre l'espianto di migliaia di ulivi e molti altri alberi in ampie zone del Nord Salento, in Puglia. La decisione riguarda le misure che l'Italia dovrà attuare per tentare di contenere nella sola provincia di Lecce il contagio del batterio della xylella fastidiosa. Sentiamo il portavoce italiano della Commissione Europea per Ambiente e Salute, Enrico Brivio. La Commissione intende mettere sul tavolo una serie di misure per fronteggiare l'emergenza della xylella, che quindi siano forse più specifiche e mirate per combattere questo batterio. Ci saranno misure sulla restrizione dei movimenti di piante e una differenziazione sul territorio in modo da cercare di avere delle misure un pochino più drastiche nella zona nord per evitare che il batterio si diffonda sempre di più e forse un po' più mirate nella parte sud della provincia di Lecce, con l'istituzione di una zona franca abbastanza larga di monitoraggio e di controllo molto stretto sempre dalla parte nord per evitare che la xylella si diffonda. Però queste sono delle proposte che saranno sul tavolo, verranno discusse nel pomeriggio e poi si spera domani si arrivi a un voto che trovi la maggioranza qualificata dei paesi e che quindi le misure possano essere varate. La Commissione europea ad Expo, presentati oggi Business Events. Giancarlo Caratti, vicecommissario generale per la partecipazione dell'Unione europea ad Expo. Noi normalmente cosa facciamo? Noi abbiamo un programma che si chiama Mission for Growth, in cui portiamo fuori dall'Europa in paesi particolari degli industriali di diversi settori manifatturieri per farli conoscere dei corrispondenti in questi altri paesi. Con Expo facciamo l'operazione inversa. Abbiamo individuato diversi blocchi di paesi, diciamo a livello regionale, c'è tutto il blocco dell'Africa, c'è il blocco dei paesi mediterranei, c'è il Giappone, gli Stati Uniti e la Cina che sono diciamo presi separatamente e insomma su 8 regioni del mondo le portiamo a Milano e abbiamo individuato anche diversi settori merceologici attraverso la European Enterprise Network, il nostro strumento di stimolo del B2B e la Promos, stiamo individuando quelle che sono le industrie più interessanti e i settori anche più interessanti e quindi creeremo appunto degli eventi in cui delle industrie europee, dei paesi dell'Unione verranno a Milano per incontrare diciamo, i rappresentanti delle industrie degli altri settori, ma non solo industrie ma anche l'ITERO. Quindi speriamo che da questo poi nascono anche delle alleanze strategiche commerciali che quindi si possa sfruttare in massima misura quello che è il potenziale non ancora sfruttato del settore dell'alimentazione. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.